situazione, quella peruviana, che vede una fase di grande incertezza che poi, tra parentesi, viene anche dal passato. È un sintomo di una fase di grande incertezza politico-istituzionale, di un sistema politico assolutamente frammentato, che è completamente in ridefinizione, e si è andata definendo questo ballottaggio, che ha portato poi al confronto fra due candidati che hanno suscitato, diciamo, nell'elettorato e nell'opinione pubblica nazionale in Perù un fattore più che altro anti, nel senso che si sono sviluppati gli anti-fujimoristi e gli anti, appunto, comunisti o marxisti, o quindi contro Pedro Castillo, che rappresenta delle istanze e anche delle zone, insomma, più disagiate, dei settori della società che sono stati colpiti nella storia recente del Perù da scelte dal punto di vista economico, sociale, che hanno sicuramente ridotto la loro qualità della vita. Quindi una grande incertezza politico-istituzionale a rappresentare due Perù diverse, quindi una situazione che ha visto l'avvicendarsi di quattro presidenti in 5 anni, quindi è un sistema politico assolutamente frammentato, segmentato, e con un congresso che in questa frammentazione presenta anche dei grossi problemi di governance, tutto ciò in un momento di crisi economica e pandemica, perché oltretutto consideriamo che nel Perù ci sono stati 186.000 morti su 33 milioni di abitanti, per cui fa tutto ciò un paese con il più alto tasso di mortalità al mondo per pandemia. Tutto ciò è andato aggravando una crisi economica che era già da tempo presente in questo paese latinoamericano, e tra parentesi questa divisione proprio in due settori netti e anche geograficamente fra due Perù che sono profondamente diversi e che non comunicano fra di loro, e che quindi sono rappresentati da due personaggi con una vita, una vicenda politica e anche una proposta proprio profondamente differente, mentre ci sono delle similitudini molto forti per quanto riguarda invece il conservatorismo di base dal punto di vista anche dei diritti sociali. In questo scenario è emerso più che altro in maniera più decisa, proprio perché rappresenta un settore più ampio della società che è stato colpito dalle politiche economiche recenti e che rimane ai margini della società, che non crede più nelle politiche neoliberiste, non crede più nella possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita, e che si sente e che risente di questa disparità sociale, che è uno degli elementi che più saltano all'occhio nella situazione del Perù attuale. Nel programma elettorale di Castillo ci sono misure autenticamente socialiste, come nazionalizzazioni, redistribuzione della ricchezza. Sarà possibile realizzarle? È difficile pensare adesso ai problemi di governance a cui mi riferivo poco fa, con un congresso che è uno specchio sicuramente di una società assolutamente frammentata e che rappresenta molto poco anche e soprattutto Pedro Castillo. Considerate che Castillo ha meno di 40 membri del congresso, quindi un congresso unicamerale di 130 membri significa che non potrà praticamente approvare alcuna legge, teoricamente, a meno che non sia disposta ad alleanze con alcuni, noi diremmo, cespugli, alcuni partitini assolutamente poco rappresentativi, che porterebbe comunque a un caos istituzionale di un certo spessore. Sarà quindi assediato dal congresso più che altro come presidente, quindi sarà parte di una categoria che in America Latina viene chiamata presidente rehén, ovvero sia presidente che è ostaggio in qualche maniera del congresso e non ha una rappresentanza di fatto nel legislativo, quindi sarà tentato magari da indire un plebiscito, di fare una sorta di colpo di mano istituzionale per poter arrivare magari a cambiare anche la Costituzione, per arrivare a una governabilità di fatto che possa rispecchiare un risultato che è già molto ma molto risicato, perché si parla nell'attualità di una vittoria, se ci sarà, perché poi tra parentesi ancora non è ufficializzata la cosa, perché c'è il voto all'estero che rappresenta una grande incognita, nonostante per pochissimo dovrebbe poi cavarsela Pedro Castillo, però con un risultato di questo genere evidentemente non è che ha una legittimità assolutamente totale, cioè ha sicuramente pieni poteri, ma comunque si trova di fronte a una situazione di grande segmentazione appunto del sistema politico, di grande voto istituzionale, di tutto tutto da ricostruire. Quello che c'è da dire è che Keiko Fujimori nello stesso tempo potrebbe anche adottare insieme ad altri partiti a cui ha già, alleata, per tentare la strada che ha avuto successo con il vecchio presidente Martin Vizcarra, ovvero sia avvalersi di quella discapacità morale, ovvero sia di impeachment del presidente per disabilità morale. Il fatto è questo, che è una disposizione della Costituzione peruviana. Su questi due scenari sono due ipotesi che evidentemente marciano tutti e due in una direzione di grande incertezza e di grande caos.